Punto. Punto e a capo. Una settimana di attualità. Una buona giornata da Alessandra Tedesco, benvenuti a una nuova puntata di Punto e a capo. L'avete sentito? Una settimana di notizie in un'ora. Una settimana che è stata segnata soprattutto dalle questioni internazionali, in particolar modo quello che sta accadendo in Libia. Nuovi bombardamenti da parte delle forze fedeli a Gheddafi contro gli insorti che ormai controllano una parte del paese. E poi c'è la comunità internazionale che si interroga sul cosa fare, sta prendendo anche in considerazione eventualmente un'opzione militare. Difficile la situazione umanitaria al confine fra Libia e Tunisia, dove si stanno ancora riversando decine di migliaia di persone. La maggior parte dei profughi sono cittadini egiziani che erano andati a lavorare in Libia e che invece ora chiedono naturalmente di poter tornare in patria. E sentiremo in questa puntata che anche l'Italia si sta mobilitando, c'è il via libera formale ad una missione che porterà il nostro paese ad allestire un campo profughi e a fornire aiuti umanitari. Ma in settimana non sono mancate anche le notizie italiane, ad iniziare dal maltempo che ha colpito violentemente il centro Italia, soprattutto le Marche, poi, lo sapete, le indagini sull'omicidio di Yara dopo il ritrovamento del corpo della ragazza nelle campagne di Brembate. Ma partiamo dalla Libia, dall'emergenza umanitaria che si è venuta a creare al confine con la Tunisia. Come dicevamo, la maggior parte dei profughi, almeno 50.000, sono egiziani che erano emigrati in Libia per lavoro. Dall'isola tunisina di Gerba partono ogni giorno una quarantina di voli diretti al Cairo. Si riescono ad evacuare circa 9.000 persone al giorno, ma ne arrivano il doppio. Dicevamo, ne arrivano quasi il doppio ed è per questo che le autorità locali chiedono soprattutto alla comunità internazionale di fornire ponti aerei. Ma sentiamo che cosa è accaduto negli ultimi giorni, riascoltando una delle corrispondenze dell'inviato del Sole 24 Ore al confine appunto fra Libia e Tunisia, Ugo Tramballi. Oggi alla frontiera c'è una situazione leggermente migliore, non c'è più quello scenario biblico che si vedeva nella terra di nessuno fra Libia e Tunisia. È come un'onda, l'onda ora si è spostata nel grande campo profughi delle Nazioni Unite e da lì si sta spostando verso il porto di Zarzis, dove migliaia e migliaia di egiziani cercano di salire sulle navi messe a disposizione dal loro governo. Ci sono ora rimasti più indietro gli asiatici. In sostanza le autorità libiche stanno cercando di prendere accordi con tutte le ambasciate dei vari paesi, perché appunto queste persone entrino nel paese, entrino in Tunisia, ma poi ripartano subito per il loro paese. Il problema per tanti paesi africani, i quali non hanno ambasciate, i quali non hanno alcun contatto diretto e sono ancora dentro la Libia. Si parla, secondo le Nazioni Unite, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, si parla di almeno di 11.000 persone, ma sicuramente molte di più. Sono persone rimaste in Libia che non possono uscire nemmeno di casa perché vengono scambiati per persone al soldo ora del regime, ora dei nemici del regime, a seconda di dove vivano, e che non hanno la possibilità nemmeno più di uscire di casa perché rischiano di essere arrestate. La situazione qui invece in Tunisia sta andando lentamente, molto lentamente verso il miglioramento, ma siamo sempre in una situazione di alta emergenza. Punto e a capo. Riprendiamo ora dall'emergenza umanitaria in Libia e Tunisia. L'Italia si è mobilitata, sentiamo quanto dichiarato dal ministro dell'Interno Roberto Maroni mercoledì dopo che il governo italiano ha deciso appunto di intervenire con una missione umanitaria. L'Italia poi ha un ruolo fondamentale perché può essere il capofila di un'iniziativa internazionale, in particolare di un'iniziativa europea, e la missione umanitaria che abbiamo deciso va esattamente in questo senso. Noi abbiamo mostrato che cosa deve fare la comunità internazionale, oltre che minacciare sanzioni, deve intervenire per mostrare l'aspetto di amicizia con questi cittadini, con questi popoli che fuggono da scenari di guerra, e dimostrare che siamo pronti a intervenire per sostenerli. Una situazione di permanente instabilità come c'è in Libia, di transizione come c'è in Egitto e di scarso controllo come c'è in Tunisia, di fronte a un'Europa che minaccia solo sanzioni, il rischio è che si aprano spazi, forse non per le organizzazioni terroristiche, ma certamente per chi rappresenta il fondamentalismo islamico ed è fortemente presente, pensiamo ai fratelli musulmani, questo spazio ci sia. Concretamente sono state avviate due operazioni umanitarie, una diretta in Libia, una nave partita la notte scorsa porta generi di prima necessità come cibo e medicinali. L'altra missione consiste invece nell'inviare aerei che possano rimpatriare gli egiziani. Di entrambe le missioni Laura Bettini ha parlato con Elisabetta Belloni, direttore generale della cooperazione per il Ministero degli Esteri. La nave trasporta beni alimentari generosamente donati dalla COP e poi generatori elettrici, potabilizzatori e kit sanitari della cooperazione italiana, tende e coperte. Tutto quello che serve quindi ad allestire anche un campo? No, senza campo, questo lo diamo tutto alla popolazione libica, provvedono loro, si sono organizzati. Avete rapporti con le autorità libiche per poter portare a termine questa operazione? Questa operazione in Libia, questa distribuzione di beni alimentari è diretta alla popolazione, scaricheremo i nostri aiuti sanitari ed alimentari alla popolazione che è organizzata, ci sono in loco appunto dei gruppi che sono in grado di gestire la distribuzione di queste materie, quindi in questo momento è un'operazione puramente umanitaria diretta ad alleviare le sofferenze della popolazione. Ci sono ovviamente dei rischi in questa missione. Ma guardi, io non voglio fare allarmismi perché non servono, queste operazioni hanno sempre una componente minima di incertezza, io non la voglio nemmeno chiamare rischio, è ovvio. Però possiamo anche dire che è una nave militare perfettamente attrezzata per eventuali rischi e poi naturalmente prima di attraccare verificherà le condizioni, questo è ovvio. Ma invece con le autorità tunisine la situazione è diversa, c'è maggiore collaborazione? Con la Tunisia siamo in contatto continuo, ho appena sentito il nostro ambasciatore che era al Ministero degli Esteri, quindi è assolutamente in stretto contatto con le autorità tunisine, alle quali il nostro Ministro degli Esteri ha formalmente dato la nostra disponibilità a venire incontro alle loro esigenze, sia in termini di voli che in termini di assistenza eventualmente sanitaria e di equipaggiamento, quindi beni alimentari piuttosto che tende, piuttosto che altre cose, dipende da quello che ci chiederanno. Ci pare di capire, da quanto l'ambasciatore ha appreso poco fa al Ministero degli Esteri, che in questo momento i tunisini insistono nei trasferimenti, l'UNHCR invece ci dice che è calata la pressione, quindi stiamo adesso verificando, abbiamo giù il nostro personale, il personale della protezione civile, della difesa, degli interni e quindi verificheranno anche loro, proprio con i loro occhi, se c'è questa esigenza. Intanto, lo dicevamo anche prima, vanno avanti i raid aerei delle forze fedeli al Rais, una delle città dove si sta concentrando lo scontro fra i militari di Gheddafi e l'opposizione, e Brega, città strategica anche perché si trovano lì diversi impianti petroliferi. E allora risentiamo una delle corrispondenze di un altro inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. La controffensiva di Gheddafi serrata ieri mattina contro la città portuale di Brega, pare anche contro Ras Lanuf, che tuttavia non ha ceduto alle forze dell'opposizione, è stata vinta dai giovani rivoluzionari, i quali erano dotati di un esercito tutt'altro che efficiente. La differenza tra gli armamenti a disposizione di Gheddafi e quelli a disposizione dei ribelli è notevole, ma dalla loro parte i giovani rivoluzionari hanno l'entusiasmo, il coraggio. Ieri sono andati al fronte addirittura qualcuno armato di coltelli, senza munizioni, ma in massa. Il grande problema è una situazione di stallo, ci sono offensive e controffensive, ma sostanzialmente i due belligeranti tengono le stesse posizioni. Di fronte a questa che di fatto è una guerra civile, che cosa sta facendo la comunità internazionale? Beh, si parla di no-fly zone, ma i paesi anche su questo sono divisi, perché comporterebbe di fatto un intervento militare preventivo, ossia un attacco contro la Libia per distruggere le sue difese aeree. Il presidente americano Barack Obama nel frattempo insiste, lo dice con forza, Gheddafi deve andare via. Muammar Gheddafi Gheddafi deve andarsene. Barack Obama coglie l'occasione di una conferenza stampa con il presidente messicano Calderon per lanciare l'ultimatum al rais libico. Ha perso ogni legittimità, ha aggiunto il leader americano, per il quale chiunque sia reso responsabile di violenze contro il popolo libico sarà chiamato a renderne conto. Obama si è spinto oltre, spiegando di avere pronte sul tavolo varie opzioni, tra cui quella militare e l'instaurazione di una no-fly zone sui cieli di Tripoli. Gli Stati Uniti hanno tutta la capacità di agire in maniera potenzialmente rapida se la situazione si deteriorerà, ha avvertito. Una capacità precisa, totale. Anche perché ha riconosciuto la fine cruenta di questa crisi non è da escludere. Ed è stato deciso dall'amministrazione americana pure l'utilizzo dell'aeronautica militare per evacuare i profughi libici. Ieri intanto la comunità internazionale ha compiuto nuovi passi contro il regime. L'Unione Europea ha fatto ufficialmente scattare le sanzioni che colpiranno i 6 principali componenti della famiglia Gheddafi insieme a 20 stretti collaboratori. Sempre Bruxelles ha annunciato l'incremento fino a 30 milioni di euro dei fondi per i profughi approdati in Tunisia. My mandate is very clear. Dall'AIA intanto il procuratore generale della Corte Penale Luis Moreno Campo ha aperto un'inchiesta per crimini contro l'umanità che potrebbe concludersi con un mandato di arresto contro Gheddafi e per tutte le persone ritenute responsabili dei massacri. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Obama, lo abbiamo sentito, insiste nel dire che il rais libico deve andare via, ma da più parti ci si inizia ad interrogare: e se Gheddafi dovesse rimanere, sarebbe un possibile interlocutore? Alessandro Milan ha girato queste domande al nostro ministro degli esteri Franco Frattini. Noi non lo crediamo più un interlocutore possibile, lo ha detto l'intera comunità internazionale. Si tratta di una persona, lui stesso e la sua famiglia, sottoposti a sanzioni gravi dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Addirittura il procuratore del Tribunale Penale Internazionale sta indagando per crimini contro l'umanità. Com'è possibile? E quindi possibile. Ma c'è anche un'eventuale opzione militare, secondo lei potrebbe essere presa in considerazione? Io non credo che l'opzione militare sia da considerare con leggerezza. Evidentemente ci vogliono mandati precisi del Consiglio di sicurezza, della NATO, ma soprattutto abbiamo sentito le parole molto chiare della Lega Araba. La Lega Araba ha detto con assoluta chiarezza: gli occidentali non entrino con militari, con eserciti, con forze armate. Insomma, solo chi non conosca per niente il mondo arabo può parlare con leggerezza di un'azione nel cuore del mondo arabo da parte di militari occidentali. Ministro, le chiedo, il rapporto Italia-Libia è in vigore in questo momento? No, evidentemente noi stiamo aiutando il popolo libico, ma il trattato è giuridicamente sospeso perché semplicemente viene meno un interlocutore. Un trattato si firma tra due governi ma resta in vigore tra due stati. Io ho detto con grande chiarezza, non deve essere annullato, deve considerarsi sospeso, perché noi speriamo presto in una nuova Libia e quel trattato deve riprendere vigore. Vedendo quello che è successo nei mesi scorsi quando Gheddafi è venuto in Italia, secondo lei davvero non c'è alcun imbarazzo per l'accoglienza, data anche il famoso baciamano di Berlusconi? Sì, ma guardi, io la farei finita con queste storie che sono piccole cose di politica interna. Ma per carità, abbiamo visto Gheddafi 5 giorni a Parigi all'Eliseo, accolto con tutti gli onori. Lo abbiamo visto presiedere la Lega Araba con tutti i leader arabi che andavano lì ad abbracciarlo, ma per piacere. Noi evidentemente abbiamo preso atto di una situazione che è profondamente cambiata. Abbiamo il capo di un paese che ha cominciato a sparare contro il suo popolo e in quel momento la comunità internazionale ha detto basta. E sulla figura di Gheddafi, il commento dell'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri all'indomani del discorso fiume di Gheddafi, durato quasi 3 ore, in cui il Rais ha lanciato anche pesanti accuse all'Italia. Qualcuno comincia a pensare, come in un incubo, che domani dovremo trattare ancora con Gheddafi. Il colonnello libico appare come un leader politicamente finito sul piano internazionale, ma ancora ben vivo su quello militare interno, capace comunque di tenere la Tripolitania e di contrattaccare le forze dell'opposizione. Gheddafi non sarà più fra qualche tempo il capo della Libia, ma intanto non intende mollare. Ieri ha pronunciato un discorso bellicoso che minacciava anche l'Italia, il paese con il quale soltanto poco tempo fa aveva firmato un trattato d'amicizia.

I delusi? Inception prende sì 4 premi, ma tutti tecnici. 3 per The Social Network, miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio e miglior colonna sonora. Disfatta per i fratelli Coen, che sono rimasti a bocca asciutta, così anche Danny Boyle. Randy Newman, for We Belong Together. Miglior film d'animazione, Toy Story 3, che vince anche l'Oscar per la miglior canzone originale. Per i documentari ha vinto Inside Job, incentrato sulla crisi del mercato immobiliare americano e i vizi del sistema finanziario. Per il regista Charles H. Ferguson, i ringraziamenti a parenti e collaboratori sono passati in secondo piano. Forgive me, I must start by pointing out. Perdonatemi, ha detto, ma devo iniziare facendovi notare che 3 anni dopo la nostra orribile crisi finanziaria, causata da una frode finanziaria, nemmeno uno dei responsabili è andato in prigione, e questo è davvero sbagliato. And that's wrong. La danese Susanna Bier vince la statuetta per il miglior film straniero con In un mondo migliore. Oh my God. This is a real Oscar. Non è riuscita invece l'impresa all'unica candidata italiana, Antonella Cannarozzi. Come sempre, il momento più toccante è quello dell'In Memoriam, dedicato agli artisti scomparsi durante l'anno. L'Academy ha ricordato anche i nostri Mario Monicelli e Dino De Laurentiis. E nella settimana degli Oscar il cinema ha perso 2 delle sue icone femminili, Jane Russell, che raggiunse l'apice della popolarità accanto a Marilyn Monroe in Gli uomini preferiscono le bionde del 1953. Ed è morta anche Annie Girardot. La grande attrice francese aveva 79 anni e da tempo era malata di Alzheimer. Con Luchino Visconti raggiunse il successo nel 1960. Era la prostituta Nadia in Rocco e i suoi fratelli. Aveva lavorato anche con Mario Monicelli, Marco Ferreri e Claude Lelouch. Paolo Panceri ha chiesto un ricordo al Nino Castelnuovo, partner della Girardot con Visconti. Lei sta parlando di una delle più grandi attrici del cinema francese, perché veramente non soltanto la trovavo una attrice strepitosa, ma aveva un fascino unico. Io l'ho conosciuta non molto bene, abbastanza, insomma, così, soprattutto perché ha sposato Renato Salvatori, che era un amico con il quale abbiamo fatto 2 o 3 film insieme, con Renato, e quindi me la ricordo per questo motivo. Sul set di Rocco ci siamo incontrati poco, però Luchino Visconti era proprio innamorato di lei. Era innamorato proprio per come attrice, straordinario. Lei poi è una donna di una dolcezza incredibile, ha avuto la sfortuna di innamorarsi di Renato Salvatori, che non rompi scatole, tra i più grandi del mondo. Proprio una donna sfortunata, però fortunata, perché ha messo al mondo una figlia. Credo che per un certo periodo è stata anche abbastanza felice, so che poi dopo si sono lasciati. Con Visconti, che dire, era difficile che Visconti perdesse la testa per qualche attore o qualche attrice, però per lei l'aveva persa, proprio era pazzo, era un'attrice che lo faceva impazzire. Punto e a capo. Grandi preparativi in corso al Teatro dell'Opera di Roma per la manifestazione musicale più importante per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Parliamo della messa in scena del Nabucco di Verdi. Debutto il 12 marzo, festeggiamenti ufficiali il 17. Sul podio il maestro Riccardo Muti, nel ruolo di Nabucco Leo Nucci. Lo ha intervistato Elisabetta Fiorito. Lei è Nabucco in una recita che coincide con i 150 anni dell'Unità d'Italia. Come si sente? Io mi sento carico, mi sento felice, specialmente dopo le prove che abbiamo fatto, e mi sento onorato anche, naturalmente, ma non voglio cadere in retorica, quindi è molto, molto gratificante quello che stiamo facendo. Che cosa vuol dire essere diretto da un maestro come Riccardo Muti? Beh, io col maestro Muti ho una lunga esperienza, perché insomma gli ultimi anni della Scala di Muti, insomma l'ultimo periodo, gli ultimi 10 anni, praticamente ho fatto tutto io, quello che nell'anno verdiano 2001, addirittura inaugurazione con Trovatore, Macbeth, Rigoletto, inaugurazione con Otello, chi più ne ha più ne metta, insomma, e quindi per me è stata veramente una grande esperienza, ho cantato tutto. Il Nabucco, quando eravamo là, glielo chiesi, dico, mi piacerebbe fare Nabucco, e adesso è arrivato finalmente. Il Nabucco è sempre stata vista come l'opera più patriottica di Verdi, un'opera che ha animato il Risorgimento. Verdi ci porta a sognare l'Italia unita? Beh, per me, io sono un uomo che vive un po' con la testa nell'Ottocento, l'ho sempre, ho sempre vissuto così. A me il Risorgimento è sempre piaciuto da impazzire. Poiché Verdi l'abbia scritto per quello che lei ha accennato, non penso. Penso che gli sia venuta così perché era l'opera del suo rilancio, però vuol dire che Verdi dentro al cuore aveva quel pensiero che lei ha detto. E quindi fu preso quest'opera, specialmente Va Pensiero, un po' come simbolo, lo sappiamo tutti. Il fatto che al nord la Lega abbia preso Va Pensiero, io non sono un uomo politico, quindi non voglio entrare in dettagli precisi, ma insomma da quello che si sente dire, ho sentito dire che ad esempio loro non vorranno venire per questa festa. La cosa stranissima è che, diciamoci le cose come stanno, l'Unità d'Italia l'hanno fatta gli uomini del nord. Nella spedizione di Garibaldi, dei mille, il numero più grosso di cittadini della sua città era bergamaschi. La cosa è, se non altro, bizzarra. Posso chiedere lei invece da dove viene? Io vengo dalla provincia di Bologna. Guardi, adesso la butto là, non voglio essere così, insomma la dico perché, siccome mi è stato detto quello che sto dicendo, che andrò a dire adesso, mi fu detto credo intorno a 50 anni fa, io all'epoca se ci fossi stato sarei salito sulla barca di Garibaldi a Quarto. Ma questo che mi sta dicendo l'ha detto il Presidente della Repubblica? Gli ho già scritto. Ho già mandato una lettera, spero l'abbia ricevuta, dove dico queste cose. Siamo una nazione unita, diventiamo un popolo unito. Questa è la cosa più importante, che purtroppo ho paura che ancora non lo siamo. Diventiamo un popolo. E chiudiamo questa pagina con uno spettacolo storico del teatro italiano, Il mistero buffo di Dario Fo, che Paolo Rossi interpreta al Teatro Vittoria di Roma fino al 20 marzo. Fra i personaggi classici della Bibbia, come San Giuseppe, spunta anche l'unto del Signore. Sentiamo Paolo Rossi, intervistato sempre da Elisabetta Fiorito. Abramo Isacco, è una storia plausibile, ma ti sembra una storia che tu, che uno e io ci siamo in un Dio, non so Dio. Sì, buongiorno. Se mi vuoi bene, sacrifica il figlio. Come fa? Ma come va dal figlio? Io non ti la prova, esatto, ciao. Più che riattualizzato ne ho dato una versione. Beh, vuol dire tante cose. Prima di tutto che è uno spettacolo che io ho visto da ragazzo quando ho cominciato a lavorare, tra l'altro proprio quando ne ho fatto centinaia di volte, quindi nella mia testa l'avevo fatto già migliaia e ogni volta lo cambiavo un pochino. Io ho seguito l'insegnamento del maestro che quando ami molto un autore non devi farti prendere da un eccesso di rispetto, e io Dario lo amo tantissimo, quindi mi sono comportato di conseguenza. Martedì una prima piena al Teatro Vittoria. Il personaggio principale, un po' tra le righe, è l'unto del Signore, no? Chi sarebbe? L'unto del Signore sono tutti chi è. Viene usato come appoggio, ma non è il cuore dello spettacolo. Ci stiamo abituando a lavorare anche senza la sua presenza. La battuta che le piace di più di tutto lo show? Certo che la migliore è quella che, usando un po' le tecniche di commedia dell'arte, improvvisando viene fuori quella sera, e magari la sera dopo non è più riusabile, dipende da tante cose. Ed è tutto per questa puntata di Punto e a Capo. Grazie in regia a Filippo Oreggi, da Alessandra Tedesco l'augurio di una buona giornata.